Mezzogiorno di Simone Spezia. Nuova scossa all'Europa, questa volta dalle elezioni in Germania. Il partito della Merkel sconfitto dalla destra dell'AfD in Mecklenburgo. Socialisti primo partito. La crescita si interrompe e si ferma il mercato del lavoro, dice l'Istat. Nei prossimi mesi proseguirà la debolezza economica. Da inizio anno scende di 9 punti la fiducia dei consumatori. Raggi resisterà, dicono i vertici dei 5 Stelle. Oggi audizione dell'assessora indagata Muraro. Il neo assessore al bilancio dice: il mio nome è suggerito dall'avvocato San Marco. Terremoto. Gli sfollati temono l'arrivo del maltempo e del freddo. Circa 5.000 le scosse dal 24 agosto. Si valutano i danni anche nei comuni colpiti meno duramente dal sisma. A Hong Kong, strappo con la Cina, entrano in Parlamento i leader della protesta del 2014. Il numero dei rappresentanti è sufficiente per il veto. Nuovi casi emergono dopo quelli delle due donne morte per aver rifiutato la chemioterapia. Il primario di Bologna, da noi almeno 7 o 8 casi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Parte oggi la nuova stagione della nostra trasmissione, con la quale andremo avanti, come sempre, fino a luglio prossimo. Dunque iniziamo il nostro punto sulle notizie di questa giornata, iniziando proprio da quello che è successo in Germania con il voto. Per l'Europa è suonato l'ennesimo campanello d'allarme con l'affermazione a Berlino del partito dell'ultradestra xenofobo ed euroscettico AfD. È un segnale del dilagare dell'ondata populista che di recente ha prodotto la Brexit. In questo autunno europeo potrebbero suonarne altri di questi campanelli e starà all'Europa non farsi trovare sorda a questi segnali. La prima data chiave è il 2 di ottobre, quando si terranno le presidenziali a Vienna e il referendum anti migranti a Budapest. Angela Merkel è impegnata in Cina al vertice del G20, ma il suo partito le ha già chiesto un'analisi seria. Intanto ha parlato la leader della destra populista, Petri. Angela Merkel si rovescia da sola, ha detto. La cancelliera illude i cittadini che si tratti di finanza o di crisi dei migranti. Ed è proprio questo il fantasma che si aggira per l'Europa. Non importa che poi alla prova dei numeri non ci sia nessuna emergenza, l'accordo con la Turchia, paradossalmente ottenuto proprio da Merkel, ha ridotto drasticamente gli arrivi dai Balcani e gli sbarchi della rotta del Mediterraneo sono in linea con l'anno scorso. I sondaggi dicono che in Austria stavolta Hofer potrebbe vincere e in Ungheria il premier Orban. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è un tema che ovviamente torneremo a trattare alle 14 in Europa 24. Intanto sentiamo l'analisi di Attilio Geroni del Sole 24 Ore. I titoli oggi sono giustamente drammatici. Schiaffo in faccia a Merkel, bocciata la sua politica di apertura ai migranti, formulata con un infatidico wir schaffen das, ce la faremo, esattamente un anno fa. Strada in salita per la ricandidatura di Angela alla cancelleria e via enfatizzando. Non c'è dubbio che il sorpasso degli xenofobi populisti di Alternative für Deutschland nei confronti della CDU nel Mecklenburgo-Pomerania sia clamoroso. Questo nonostante molti commentatori si siano affrettati a descrivere la marginalità di questo land, con 1,6 milioni di abitanti e una presenza trascurabile di immigrati, circa 23.000. In ogni caso il segnale che arriva alla politica nazionale e all'Europa è preoccupante, soprattutto in vista delle elezioni politiche tedesche del settembre 2017. Sarà una campagna monotematica, si parlerà soltanto di migranti e identità nazionale, in Germania come in Francia, dove si vota per le presidenziali tra aprile e maggio. A ricondurre il voto di ieri in un più equilibrato contesto, bisognerebbe dire che i sondaggi a livello nazionale riconfermerebbero con qualche affanno l'attuale grande coalizione CDU-SPD, ma il fatto stesso che Alternative für Deutschland possa concretamente diventare a livello federale il terzo partito di Germania, con consensi attualmente compresi tra il 12 e il 14%, è altamente destabilizzante per gli assetti politico-istituzionali di un paese che si regge su un meccanismo delicato di pesi e contrappesi. Come sempre, pendiamo tutti dalle labbra di Angela Merkel, che tarda non tanto a formalizzare la sua ricandidatura alla cancelleria, tanto sarà sempre lei a guidare la CDU al voto del 2017, quanto a rispondere con una nuova strategia politica all'avanzata di una destra populista che in realtà sta raccogliendo consensi al centro, a sinistra e non soltanto a destra. Intanto si sta concludendo in questi minuti il G20 che si svolge in Cina. Forse possiamo sentire un breve passaggio della conferenza stampa che è in corso in questi minuti del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan e del Premier Renzi. Sentiamo Padoan. ...dall'Ecofin per continuare con il G7. È stato però ribadito il fatto che la ricerca di un regime trasparente che permetta uno scambio uguale dal punto di vista fiscale è acquisito come un nuovo capitolo importante, molto importante nell'agenda del G20. Ricordo il BEPS, quella iniziativa portata avanti dall'OCSE insieme al G20 per la trasparenza. Ricordo gli impegni alla trasparenza, allo scambio di informazioni che sono nati nel G20 qualche anno fa e adesso sono patrimonio acquisito. Quindi da questo punto di vista è stato rafforzato un importante segmento della cooperazione economica internazionale. Così dunque un passaggio della conferenza stampa del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan che abbiamo sentito in diretta, un G20 nel quale nel documento finale si è parlato di uno stimolare una crescita inclusiva e sostenibile, e mentre il G20 parla di crescita lo fa anche l'Istat segnalando una netta battuta d'arresto. La crescita italiana è bloccata e i prossimi mesi sembrano non riservare nulla di buono. L'economia italiana, certifica l'Istat nella nota mensile sullo stato di salute del paese, ha interrotto la fase di crescita. Pesano negativamente la domanda interna e la caduta della produzione industriale. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo ha registrato una variazione nulla rispetto al primo trimestre dell'anno e su base annua è cresciuto dello 0,8%, inflessione rispetto all'1% registrato tra gennaio e marzo. A luglio rimane negativo anche l'indicatore anticipatore dell'economia e nei prossimi mesi, stima l'Istituto di Statistica, proseguirà la fase di debolezza dell'economia. La crescita zero del secondo trimestre impatta anche sul mercato del lavoro, che sempre a luglio ha registrato una battuta d'arresto, con gli occupati in calo di 63.000 unità dopo 4 mesi consecutivi di aumento e durante l'estate la fiducia delle imprese è scesa sotto quota 100 per la prima volta da febbraio 2015. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo il quadro che arriva dall'Istat, vedremo se riusciremo a sentire magari più avanti un commento dello stesso Presidente del Consiglio, Renzi, che sta parlando in questi minuti alla conferenza stampa conclusiva del G20. Noi restiamo all'Italia intanto e restiamo alla situazione politica che vede in primo piano la vicenda della giunta del Movimento 5 Stelle a Roma. Il punto di oggi con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì Simone, buongiorno. Vicenda Raggi che resta, dicevi, sotto i riflettori e che oggi vivrà un appuntamento importante alle 17 con l'audizione in commissione ecomafie della stessa sindaca e dell'assessore all'ambiente Muraro. Convocazione questa non degli ultimi giorni ma già di luglio, quando divenne di dominio pubblico un'intercettazione tra la Muraro e Buzzi, factotum delle cooperative coinvolte in Mafia Capitale. Questo nodo e le recenti dimissioni che hanno coinvolto i vertici del Campidoglio agitano dunque la giunta 5 Stelle. La stessa Raggi mostra comunque tranquillità. Grillo mi ha inviato un sms di sostegno. Ci sono stati degli errori ma ora siamo più forti, dice la sindaca. Quanto alla Muraro, la Raggi spiega, mi ha garantito che non le è arrivato neanche un avviso di garanzia. Prima di giudicare vogliamo vedere le carte. L'ex magistrato contabile Raffaele De Dominicis è intanto il nuovo assessore al bilancio. Ai dirigenti dirò che la festa è finita, chi non lavora verrà cacciato, spiega De Dominicis. In alcune interviste dove però un suo passaggio è già al centro di nuove polemiche, dove svela che la sua candidatura nasce da una richiesta di disponibilità arrivata dall'avvocato San Marco, che lo ricordiamo è stato in passato legato a Previti ed è il titolare dello studio dove la Raggi fece il praticantato. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Veniamo alle cronache dalle zone colpite dal terremoto. Da una parte l'arrivo del maltempo, l'arrivo del freddo, dall'altra le inchieste che sono partite e andranno avanti presumibilmente a lungo. E l'allerta maltempo ora la preoccupazione principale degli sfollati assistiti nelle tendopoli. A partire da oggi è previsto l'arrivo di temporali sparsi e diffusi accompagnati da locali grandinate e forti raffiche di vento su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, proprio nel centro Italia, proprio nelle aree colpite dal sisma del 24 agosto. Accelerare e fare presto con il trasferimento degli sfollati in sistemazioni alternative come le strutture alberghiere, questo è l'imperativo della Protezione Civile. Il capo dipartimento Fabrizio Curcio spinge dunque per la chiusura delle aree attendate. niente. Le temperature diventeranno presto più rigide, ha detto. Dobbiamo spostare subito le categorie di persone più fragili. La stessa Protezione Civile ha garantito che le casette saranno pronte entro 7 mesi, ma fino ad allora occorre trovare altre soluzioni abitative. Intanto sono partite anche le verifiche strutturali degli edifici, perché molti non vogliono lasciare i loro comuni. Per il pomeriggio invece è stata convocata una conferenza straordinaria dei consigli regionali per mettere a punto le azioni comuni a favore delle popolazioni e delle zone colpite. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Proseguono le indagini sul terremoto che ha sconvolto il centro Italia. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, Giovanni Salvi, si è recato negli uffici della Procura Rieti per un incontro con il procuratore capo Giuseppe Saieva. Al centro del meeting la possibile richiesta della Procura di portare a Rieti altri magistrati per rinforzare il pool che si occupa dell'inchiesta sui crolli di edifici a causa del terremoto. È prevista sempre in Procura un'altra riunione tra i magistrati e le varie forze dell'ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria nell'indagine. L'incontro è stato convocato per chiarire quali siano i passi da seguire durante la settimana. Sul terremoto le indagini sono all'inizio, quindi vanno bene, ha detto il procuratore capo di Rieti Giuseppe Saieva uscendo dalla procura. Infine, sull'ipotesi di una superperizia affidata a un pool di esperti sulla quale Saieva ha espresso cautela in un'intervista a un quotidiano per via dei costi, lo stesso magistrato ha commentato: avrete notizie. Leonardo Rossi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sale a 38 vittime il bilancio di una serie di attentati con autobomba compiuti in varie regioni siriane controllate dalle forze governative, lo riferisce l'agenzia ufficiale Sana'a. Secondo le fonti, a Tartus sulla costa si sono verificati gli attentati più gravi. Altre esplosioni si sono registrate nei pressi di Damasco, a Homs e ad Azaque, capoluogo della regione nord-orientale. E per restare all'estero andiamo ad Hong Kong, dove i leader della protesta contro Pechino entrano in Parlamento. Si tratta di un vero e proprio schiaffo elettorale a Pechino. Per la prima volta alcuni leader della protesta anticinese sono entrati in Parlamento. È il primo voto dopo la manifestazione del famoso Movimento degli Ombrelli del 2014 per rivendicare il suffragio universale e una maggiore autonomia dalla Cina. Tra gli eletti anche Nathan Lowe, uno degli attivisti che guidarono la protesta, che con i suoi 23 anni risulta il più giovane deputato nella storia dell'ex colonia britannica. A votare alle elezioni al Consiglio legislativo, che per la città con autonomia speciale equivale a un Parlamento, oltre il 60% degli elettori, un numero record. I parlamentari che contestano il dominio cinese hanno abbastanza seggi per esercitare il potere di veto. A Hong Kong, una nuova generazione filo-occidentale potrebbe essere pronta a difendere i valori democratici e contestare il rapporto con Pechino. Francesca Conti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo a Venezia per parlare di cinema. C'è la nostra inviata Marta Cagnola. Ciao Marta, buongiorno, che cosa ci racconti da là? Sì Simone, partiamo subito con le notizie proprio fresche del mattino. Vorremmo partire con le notizie fresche del mattino con la nostra Marta Cagnola, ma evidentemente abbiamo qualche problema di collegamento. Attendiamo un attimo il nostro Alessandro Longoni recuperi se riesce via telefono Marta Cagnola, che evidentemente appunto la diretta tramite i sistemi, tramite questo sistema evidentemente non funziona. Ci siamo? Vediamo se riusciamo a recuperare Marta Cagnola. No, non ci siamo, al momento non funziona. Facciamo una cosa. Ah no, ce l'abbiamo. Eccola qua, Marta Cagnola, proviamo col telefono. Eccoci qua, eccoci qua. Forse allora, meglio, vai. Partiamo subito con le notizie freschissime, ti dicevo, del mattino, perché c'è stato questo film italiano in concorso molto atteso che si chiama Piuma, regia di Ron Johnson. Allora, durante la proiezione, molte risate, anche applausi a scena aperta. Poi, finita la proiezione, qualche applauso e addirittura qualche grido vergogna. Oddio, cosa sarà mai successo? Allora, Piuma è una commedia molto lieve, come promette il titolo, e quindi immaginati i critici più tradizionalisti quanto possono disprezzare una commedia lieve in concorso a Venezia, quindi in molti si sono rivoltati. Se vi interessa la mia opinione, invece, la storia di Kate e Ferro, diciottenni maturandi, diciamo, che si trovano alle prese con una gravidanza sorpresa, è molto molto divertente. Uscirà nelle sale il 20 ottobre, quindi tutti potranno farsi una sua opinione tra un mesetto. Il cinema è fatto di commedie, certo, ma anche di film più tradizionalmente d'autore, come Spira Mirabilis, anche lui in concorso, è stato presentato ieri, e se volete ve lo faccio raccontare direttamente dai registi Massimo Danolfi e Martina Parenti. Il nostro è un film sulla, forse sulla la parte migliore degli uomini, almeno abbiamo provato a indagare quell'aspetto lì, ed è un film che attraverso i quattro elementi della natura, l'acqua, la terra, l'aria e il fuoco, a cui abbiamo aggiunto l'etere aristotelica, che è la natura di cui sono fatte le stelle, proviamo a raccontare questa aspirazione verso l'immortalità, che altro non è per noi che è l'accettazione della morte, e abbiamo lavorato anche appunto sul singolo attraverso Shin Kubota, lo scienziato giapponese, sulla coppia, i due inventori musicisti svizzeri, e sulla comunità con i Lakota e sull'assenza dell'uomo con le statue del cimitero delle statue della veneranda fabbrica del Duomo. Ecco qui quindi due film completamente diversi l'uno dall'altro, i due italiani in concorso. Simone, direi che per ora da Lido è tutto. Ti ringrazio, grazie alla nostra Marta Cagnola, inviata al Lido di Venezia per raccontarci appunto la mostra del cinema di quest'anno. Un'ultima notizia prima di andare a sentire cosa succede sulle strade. Un numero imprecisato di migranti è caduto in mare da un gommone che era in precarie condizioni di galleggiabilità. 6 i corpi finora recuperati da una nave della Marina Militare intervenuta sul posto. Sono ancora in corso le ricerche di eventuali dispersi. In 6 diverse operazioni di soccorso, tra cui questa, i pattugliatori Orione e Borsini hanno recuperato quasi 500 migranti. Queste sono le notizie che arrivano al momento. Stiamo cercando di collegarci con qualcuno che ci possa raccontare un po' più precisamente che cosa sta succedendo e a che punto sono le operazioni di recupero. Vedremo se ci riusciremo nel corso di questa trasmissione. Adesso, come si diceva, ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro consueto giro per l'Italia, che ricomincia così come ricomincia Effetto Giorno. Torneremo su un tema trattato anche in parte da Gianluca Nicoletti poco fa, la vicenda della 18enne padovana morta di leucemia e che si curava con il cosiddetto metodo Hammer, della 34enne riminese morta di cancro alla mammella dopo aver rifiutato la chemio per curarsi con ricotta e decotto di ortiche. C'è un'intervista che ci ha colpito molto nelle ore scorse, un'intervista realizzata dal Corriere della Sera al direttore del centro di senologia del Sant'Orsola di Bologna, che dice: beh, in questi ultimi anni ci sono stati almeno 7-8 casi dei quali ho conoscenza. Parleremo proprio con lui dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle elezioni regionali in Germania, nelle quali è stata colpita la CDU di Angela Merkel, superata in Mecklenburgo da Alternative für Deutschland. Abbiamo parlato dell'Istat che parla di una crescita che si interrompe, abbiamo parlato della giunta di Roma e delle sue difficoltà, abbiamo parlato del terremoto e adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Bologna con Mario Taffurelli, che è direttore del centro di senologia e del reparto di chirurgia della mammella del Sant'Orsola di Bologna, del capoluogo dell'Emilia Romagna. Buongiorno e benvenuto Taffurelli. Buongiorno. E lo facciamo prendendo spunto da quei due casi della 18enne di Padova morta di leucemia, si curava con il metodo charlatano di Hammer, della 34enne riminese che è morta 2 giorni fa di cancro alla mammella dopo aver rifiutato la chemio per curarsi con ricotta e decotto di ortiche. C'è un'intervista che lei ha rilasciato, Taffurelli, al Corriere della Sera, che ci ha colpito molto, perché ha detto: guardate, c'è un sottobosco incredibile di tutto questo, e solo a me, casi dei quali sono a conoscenza, ce ne sono 7 o 8. Ci può dare qualche dettaglio in più, raccontarci che cosa succede, darci un quadro? Sì, sicuramente. Purtroppo queste cose succedono anche nella nostra città, appunto a Bologna. Questi 7-8 casi che io ricordo sono presentati in uno spazio temporale di circa una decina d'anni, ecco, per intenderci. In media sono 300-350 i tumori della mammella che si operano ogni anno, quindi 6-7 casi, 7-8 casi su oltre 3.500 pazienti operati. Ecco, fortunatamente è una situazione molto molto limitata, quindi da un punto di vista percentuale non ha un grosso significato, però purtroppo succedono, esistono, e ci sono purtroppo persone che rifiutano questa chemioterapia facendosi fondamentalmente convincere da personaggi che prevalentemente non sono medici, direi inequivocabili, che appunto promettono delle terapie alternative che non hanno nessunissima base scientifica. Non solo, ma esistono purtroppo anche situazioni paradossali in cui fondamentalmente non solo c'è un rifiuto alla chemioterapia dopo un intervento chirurgico, ma c'è proprio un rifiuto a un intervento chirurgico per una patologia che è quella che io tratto prevalentemente, il cancro della mammella, che da un punto di vista, diciamo, terapeutico, oltre alla chirurgia, ha oggi sicuramente delle armi estremamente efficaci. La chirurgia però è il primo punto, il primo passo per poter poi... Però mi chiarisca affrontare questa cosa, Taffurelli, dalla sua esperienza. In questi casi mi diceva, appunto, non c'è solamente il rifiuto della chemioterapia, ma avete verificato appunto anche il rifiuto della chirurgia, dell'intervento chirurgico e quindi dell'asportazione della massa tumorale. Certamente, con situazioni poi drammatiche che vengono appunto a ripresentarsi a distanza di 2 o 3 anni dopo questo precedente rifiuto, dove non c'è più assolutamente nulla da fare, neanche da un punto di vista chirurgico, con un'invasione della parete toracica da parte di questa neoplasia, dove fondamentalmente, oltre a una assenza totale di possibilità di guarigione, a questo punto c'è anche una pessima qualità di vita, perché gli ultimi mesi di sopravvivenza di queste povere donne, e io di queste ricordo almeno 2 o 3 casi, di questi 7-8 che ho citato, è veramente una qualità di vita pessima, perché non ci sono terapie possibili per limitare la diffusione di questa neoplasia. Perché in sostanza queste donne, Taffurelli, ritornano da voi nel momento nel quale si rendono conto che queste terapie non funzionano. Ritornano, però ritornano in una fase in cui praticamente non c'è più nulla assolutamente da fare da un punto di vista tecnico, da un punto di vista locale, e quindi ribadisco, oltre alla impossibilità ormai di guarirle, c'è anche questi ultimi mesi di sopravvivenza sono mesi caratterizzati da dolori, bruciori, situazioni veramente molto molto importanti, molto molto tragiche direi, senza possibilità di fare praticamente quasi nulla, insomma, c'è ancora questa purtroppo. E queste sono persone che sono state fondamentalmente illuse che l'alternativa alla chirurgia era appunto un qualche cosa tipo appunto i decotti di ortica o cose di questo genere, che ovviamente non se ne parla neanche. Addirittura alcune, ne ricordo una in particolare, dove fondamentalmente, un po' seguendo lo stile Hammer, era il suo cervello che doveva diciamo liberare, riusciva con le sue forze interiori a risolvere, a liberarsi da questa malattia. Ecco, siamo ancora a questi livelli negli anni 2000, ecco, non parlo di situazioni che si sono verificate nel 1950, quando io tra l'altro ero appena nato. Sì. Senta Taffurelli, abbiamo visto negli ultimi mesi, e spesso l'abbiamo raccontato anche da questi microfoni, con casi locali e anche casi non locali, casi nazionali, una progressiva diminuzione delle vaccinazioni, dovuta anche, se vogliamo, alla diffusione, no, via internet, di tutta una serie di informazioni difficilmente verificabili e spesso false, insomma. Lei nota che da questo punto di vista c'è un incremento di attenzione anche per quanto riguarda la cura del tumore verso le terapie alternative di questo tipo, un po' come si sta verificando, no? Come una crescita dell'antivaccinismo, dalla sua esperienza personale? È fondamentale la comunicazione. Cioè, qui occorre veramente che a queste donne, a queste pazienti, donne, io parlo donne, vi parlo prevalentemente di tumore della mammella, ma anche ad altri pazienti con altre patologie neoplastiche, quindi uomini, donne, eccetera, venga impostato un discorso comunicativo diciamo di qualità, che si basi su dei dati scientifici. A questo punto, insistendo anche fondamentalmente, portando dati, mettendo a disposizione tempo per questa comunicazione di diciamo situazioni sfavorevoli, anche di situazioni sfavorevoli, dando a queste donne, fondamentalmente a questi uomini, delle precise diciamo informazioni su quanto ha fatto di enorme la oncologia in questi ultimi anni. Situazioni che una volta erano, ma parliamo solo di 10-15 anni fa, molto difficili da curare, da trattare, oggi con i nuovi farmaci, che tra l'altro, fra parentesi, hanno sempre meno effetti collaterali, possono avere delle soluzioni veramente ottimali. Quindi il mio messaggio è un messaggio diciamo positivo. È chiaro che ci deve essere da parte dei medici, che devono essere medici dedicati specificatamente per quella patologia, l'attenzione a comunicare, a come comunicare, e in maniera tale che fondamentalmente queste persone possano seguire una strada giusta, non siano deviate fondamentalmente da illusioni che portano poi a delle vere e proprie tragedie da un punto di vista prognostico, insomma. Io la ringrazio, grazie a Mario Taffurelli, direttore del Centro di Senologia del Reparto di Chirurgia della Mammella del Sant'Orsola di Bologna, per averci raccontato anche di questi casi. Vedo qualche sms di ascoltatore che arriva piuttosto critico sul fronte delle parole del dottor Taffurelli, che però è uno scienziato e un medico. A chi dice che la cura del tumore non esiste, ci sono tentativi di cura, la dimostrazione di quello che sta succedendo col tumore al seno quando viene preso in tempo è esattamente il contrario. Mauro Falcucci, e da qua proseguiamo il nostro giro per l'Italia. Siamo a Castel Sant'Angelo sul Nera. Mauro Falcucci ne è il sindaco. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, Castel Sant'Angelo sul Nera è nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è nella provincia di Macerata, ma è a pochi passi, a pochi chilometri da Norcia, a pochi chilometri da Castelluccio, o l'area che insieme a quella del Reatino è stata quella più colpita dall'ultimo sisma. Ci sono una serie di comuni qua intorno, in parte lo abbiamo raccontato anche nelle ore immediatamente successive al terremoto, che hanno subito molti danni, dove fortunatamente non ci sono state vittime e che però rischiano di venire un po' esclusi dagli aiuti e la cui situazione rischia di essere sottovalutata. Sembra di aver capito, Falcucci, che questo è il vostro caso, no? Esatto, lei ha rappresentato molto bene l'attuale situazione. Noi veniamo purtroppo da questo evento del 24 che ci ha fortemente colpito. Nel senso, noi non abbiamo avuto, grazie a Dio, la fortuna di avere vita. Però abbiamo evacuato una casa di riposo con 25 ospiti, perché ci è andata totalmente inagibile. E purtroppo abbiamo, e quindi quel giorno stesso, la mattina stessa, grazie ai cittadini e ai volontari nostro piccolissimo comune, perché contiamo appena 300 anni, quindi si può comprendere molto bene che non possiamo essere super organizzati. Siamo riusciti a mettere in salvo anche 10 persone che erano totalmente inagibili. Abbiamo appoggiato in un albergo e poi grazie alla Croce Rossa italiana. Quindi mi scusi, quanti sfollati ci sono in sostanza? Al momento noi questa notte hanno dormito fuori ancora 55 persone. Noi sì. Abbiamo, che è un sesto della popolazione del paese a questo punto. Siamo ultimamente, addirittura mi hanno corretto, siamo a 278, io pensavo 77 o 78 residenti, perché purtroppo la montagna, noi viviamo questa doppia immagine, la montagna rimane piccola, poi nei periodi di magari di feste, d'estate specialmente, si ripopolano, arriviamo anche a 3.500 residenti, quindi abbiamo un patrimonio abitativo notevole, seppur ovviamente di antica costruzione, come sì. Si può immaginare, la montagna italiana. Noi abbiamo edifici che risalgono al 1200, 1300, certo. Le chiese, e ovviamente anche le annesse costruzioni sono medievali, quindi con murature antiche. Falcucci, voi non siete rientrati tra i comuni, ce ne sono altri che stanno tentando di rientrare nei comuni come dire, colpiti dalla prima emergenza e coinvolti dal decreto che riguarda la prima emergenza, mi sembra di aver capito, no? Esatto, noi non siamo stati inseriti, immagino per una svista, per un errore, perché qualcosa non ha funzionato, così mi hanno assicurato, nel decreto che è firmato dal ministro Padoan, che dava la possibilità ai cittadini che sono stati colpiti dal sisma di eventualmente sospendere il pagamento dei tributi. Non soltanto noi come Castel Sant'Angelo, che siamo stati anche epicentro, ma tutti i comuni della provincia di Macerata, di Mitri a noi, quindi parlo di Ustica, Risso, Castel Sant'Angelo, Via Vetorina, Camerino, Via Bogliana, ce ne sono una miriade di comuni piccoli nella montagna, non siamo stati inseriti alla pari dei nostri cugini della provincia di Ascoli e di Fermo. Ci è stato detto che è una svista, siamo inseriti, tanto è vero questo che io ieri ho partecipato, sono stato chiamato come uno dei 7 comuni più colpiti nel vertice di Arquata del Tronto che abbiamo avuto con il commissario Errani e con il capo della protezione civile Curcio. Quindi io ho partecipato e posso dire che da ieri ci mancherebbe, siamo stati ascoltati, mi sembra che l'impronta che è stata data sembra quella che ormai è quella di rimuovere immediatamente quanto prima le tende. Se abbiamo una tendopoli, ovviamente che ospitiamo fino a 96 persone, il numero varia secondo le scosse sismiche, quando l'altro ieri abbiamo avuto una replica dalle 12 e 26 di 4.5 di magnitudo, ne comprende che la sera si è riempito di nuovo il campo, però certo. Siamo a 800 metri, quindi cominciano ad abbassarsi le temperature e la notte in tenda non è più sopportabile. Certamente, avendolo attrezzato con tutti i supporti, sia psicologici, c'è l'ASL che ci ha messo a disposizione i psicologi, Croce Rossa pronta, una cucina da campo e tanti volontari che desidero ringraziare, perché questo nostro bel paese, se non ci fossero i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco, probabilmente i drammi li vivremo anche dal punto di vista morale, perché molte volte serve anche il sostegno morale, perché un anziano che ha perso una casa per la seconda volta, noi veniamo da un terremoto del 97, sì, e vede dopo 20 sì, perché anni. Poi voi siete là a due passi, perché l'epicentro fu Sellano e siamo proprio, insomma, là a ridò. Siamo a 5 km di Gnadario, se no con Norcia. Noi ci divide una montagna, spesso il sisma avviene proprio tra noi due, poi paradossalmente sembra che citare questo piccolo comune diventi difficoltoso, si parla sempre di Norcia e Maceratese, purtroppo è Norcia e Castel Sant'Angelo Sumera, e sotto il vettore ci siamo noi, siamo ai confini con Castelluccio di Norcia, che è una frazione di Norcia, e noi siamo lì vicino, e proprio ieri abbiamo registrato in una località, proprio sotto le pendici del vettore, queste epicentro. E siamo preoccupati per l'aspetto geologico, perché la paura continua, siamo anche un po' allarmati, perché riteniamo che il terremoto questa volta debba avere, e su questo ho avuto assicurazioni anche dal Presidente della Regione, ma più che altro dal Commissario, che ci siano dei confini cosiddetti oggettivi, confini tecnici, perché troppo spesso in Italia si allargano a dismisura i confini, e credo che il riferimento onesto, corretto, per contenere i costi sia quello che ci dice l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia di Roma, che ci dicono dove sono state fatte, perché altrimenti si verifica una cosa paradossale, le rubo un secondo, che spesso i comuni che sono lontani e hanno una struttura idonea, noi non siamo ancora in grado di completare la scheda delle ordinanze. Sto aspettando un supporto, perché ho un organico di un ragioniere, un operaio autista e un geometra. Allora, bene che se non siamo di noi, dica. La ringrazio, grazie a Mauro Facucci, che è sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, con il quale noi iniziamo un giro che vogliamo fare tra questi comuni, tenendo sempre sott'occhio ovviamente quello che viene detto, forse con una brutta parola viene definito il cratere, cioè il luogo dove c'è stato il maggior numero di vittime, soprattutto Amatrice, con questi 295 morti complessivi del sisma, appunto tra Arquata del Tronto e Amatrice e Accumoli. Tenendo sempre l'occhio là, vogliamo iniziare a fare un giro tra i comuni che hanno subito danni e che però stanno passando un po' sotto silenzio e che si preparano ad affrontare, come avete sentito, delle grandi difficoltà, pur essendo piuttosto piccoli, come Castel Sant'Angelo sul Nera. Lo faremo anche nei prossimi giorni. Pausa, tra un attimo i titoli, la borsa, e poi ci ritroviamo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Anche le elezioni regionali in Germania scuotono l'Europa. Il partito della Merkel è sconfitto dalla destra dell'AfD in Mecklenburgo. Socialisti, primo partito, sono molto scontenta, ha detto pochi istanti fa la cancelliera. Un numero imprecisato di migranti è caduto in mare da un gommone in precarie condizioni di galleggiabilità. 6 i corpi recuperati fino ad ora. La crescita si interrompe e si ferma il mercato del lavoro, dice l'Istat. Nei prossimi mesi proseguirà la debolezza economica. Da inizio anno scende di 9 punti la fiducia dei consumatori. Raggi resisterà, dicono i vertici dei 5 Stelle. Oggi audizione dell'assessora indagata Muraro. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta...